signo sì, chi nel cave me ne va, già che piace a voi così, ai ferretti che non fa, no, no, no, no, no, no, no, no. Cavalier voi siete già, dubitar non possa fre, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me. Rigonaccia, maladrina, fa signor la mia ruina, fa signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricolaccia, malandrina, fa signor la mia ruina, fa signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te. Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te.